Stasera io sono particolarmente contento di poterlo presentare ai nostri appassionati perché sarà una bella serata. Grazie a tutti e auguri a Giampaolo e Teo. Allora, grazie mille e come giusto che sia, Fabrizio mi ha proprio tolto le parole di bocca perché io sono proprio felice di incontrare, di conoscere e anche così di fare da chaperone a Giampaolo Simi. E proprio perché così, cioè, è uno scrittore un po' speciale, adesso vedremo pian piano perché, volevo prima di entrare nei suoi libri, gli ho proposto di fare tre domande lampo, veloci così, che c'entrano naturalmente con i suoi libri, ma che insomma, tre domande, tre risposte per conoscerci un po' personalmente. E la prima che vorrei farti, così, è un luogo della tua infanzia a cui tu sei legato. Ah, innanzitutto buonasera a tutti. Non avevo ancora salutato questa bella platea e grazie di questo invito. Un luogo della mia infanzia. Il luogo della mia infanzia sicuramente è questo grande parco pubblico che io vengo da Viareggio, sulla costa toscana. Posto di villeggiatura che conserva proprio nel pieno, nel cuore della città una grande pineta. Il cuore della nostra città è per fortuna un cuore verde, che è stato salvato da qualsiasi speculazione. È un po' il nostro, è l'ascito che ci hanno dato i nostri nonni. Ecco, lo sentiamo questi bei pini verdi, ma dico perché? Perché era il luogo dove ovviamente era il luogo dei giochi, no? Dove cresci, dove cominci a giocare a pallone, dove impari ad andare in bicicletta. Però allo stesso tempo questo cuore verde, questo parco verde, questa bella pineta di cui insomma, siamo così, così orgogliosi. È stato anche lo scenario di un caso di cronaca della fine degli anni 60 che ha lasciato il segno nella storia italiana, no? Proprio del crimine italiano, una storia molto complessa che ovviamente non staremo qui a descrivere, ma è quella del famoso caso Lavorini. Io avevo 3 o 4 anni, ma insomma si parlava di un ragazzino scomparso e poi ritrovato ucciso e la pineta, questa pineta poi con l'arrivare delle tenebre, delle ombre, diventava un posto non più frequentabile, ecco, non certo frequentabile, e che aveva. Quindi, insomma, è un luogo della mia infanzia che, bueno, non voglio citare James Ellroy, però è anche un luogo oscuro, cioè un luogo di affetto, ma anche con un risvolto oscuro. Molto, molto interessante, anche questo ci introduce E la prima domanda è andata, la tua, sì. ancora altri due. Senti, crescendo invece, che tipo di adolescente eri? Allora, dunque, qui lo scrittore dovrebbe dire: boh, stavo in casa, leggevo un sacco di libri. No, no, no, io sono ho avuto un'adolescenza strana, nel senso che da una parte facevo quello che più o meno tutti i ragazzini adolescenti fanno, cioè io volevo fare il calciatore, cioè, insomma, la prima opzione è stata quella, no? E quindi niente, ho giocato qualche anno, no? Nei giovanissimi, negli allievi, però in una squadra che insomma, raccoglieva diciamo proprio l'anima popolare anche più ruvida della mia città, che si chiamava Stella Rossa, cioè il nome, tutto un programma, si chiamava Stella Rossa. E mio padre, fra l'altro, che è sempre stato un fervente anticomunista, era ovviamente disperato per questa mia scelta di giocare. E, però qual era il problema? Che da una parte giocavo nella Stella Rossa, dall'altra avevo scelto di fare il liceo classico. Ed ecco, cioè il fatto che io studiassi il greco e il latino era sufficiente per i miei compagni di squadra per non passarmi il pallone. Perché no? Non si fidavano. Ecco, ho avuto un'adolescenza un po' strana, però felice. Magari non è molto da scrittore, però posso dirlo, è stata una bella adolescenza. Un bomber che cita Tucidide non dà affidamento. Non... No, bomber no. Io stavo in difesa, menavo e rilanciavo i palloni in tribuna. Le tribune non c'erano, meglio ancora nel campo. E io facevo quello, sempre fatto quello. No, bomber. Non ho i piedi per fare il bomber. E senti, infine, una cos'è che oggi, una situazione della vita così quotidiana che ti indispone, che ti fa perdere le staffe? Una situazione che, l'arrivo in una discussione su Facebook del solito troll, lo possiamo chiamare così, di quello che arriva senza conoscere le buone maniere, senza conoscere neanche quello di cui si sta parlando, e trancia i suoi giudizi, e poi quando gli dici sì, ok, educatamente dici: senti, però insomma, se vogliamo parlare di questa cosa, magari almeno vatti a vedere la voce di Wikipedia. Stiamo parlando degli elefanti indiani, insomma, prima di dire che gli elefanti indiani fanno schifo, non lo so, insomma, vai a vedere, oppure che sono più grandi di quelli africani, cosa che non è, magari no, guarda, Wikipedia te la guardi, e a quel punto il troll si dilegua. Cioè, quando capisce di aver detto un'inesattezza, se vogliamo essere eleganti, e tu glielo fai notare con tutta la pazienza e le buone maniere, in genere si dilegua, sparisce. Questo credo che sia, insomma, questo tipo di comportamenti credo che stiano un po' minando, insomma, sia la fiducia reciproca fra esseri umani, sia il dialogo, perché io sono convinto che molti di questi che sono molto aggressivi su internet, che arrivano sulla tua bacheca, tu non li conosci, non ci conosciamo di persona, e subito ti danno dell'idiota, spesso ti danno dell'idiota, neanche senza... poi se li incontri dal vivo, ci fai una chiacchiera, poi insomma, no... Ecco, questa aggressività mi fa paura, perché poi alla fine dipinge anche gli altri in maniera molto più ostile di quanto non siano, no? E quindi questo. Senti, grazie mille intanto. Ti ho fatto queste domande così al brucio, perché vedo che vengono fuori delle cose che poi si affacciano nei tuoi libri. E adesso che ci hai raccontato un po' di te e che ci hai permesso così di conoscerti un pochino personalmente, parliamo dei tuoi libri, che sono molti, sono uscito, tu hai pubblicato per Derive a Prodi, hai pubblicato per Einaudi, hai pubblicato per EO, e adesso sei un autore di Sellerio, per la quale sono usciti i tuoi ultimi due libri, che sono quelli che trovate anche qui fuori, che sono Cosa resta di noi, che è del 2015 e che, come dicevamo prima chiacchierando, ha vinto un premio molto prestigioso per un giallista, ed è un premio molto meritato, anche questo ci dicevamo prima, c'è il premio del fondo Scerbanenko, che ti è stato consegnato, mi dicevi, dalla figlia di Scerbanenko. Dalla figlia e da Maurizio De Giovanni, la cosa mi ha fatto molto molto piacere, insomma. E poi questo settembre, quando appunto fervevano i messaggini, anche è uscito questo, che si chiama La ragazza sbagliata, che è attualmente l'ultima tua fatica, l'ultimo tuo lavoro. E dovendo presentare Giampaolo, e anche il motivo del mio entusiasmo, la prima cosa che vorrei dire è che è uno scrittore con una forza in sé, con una potenza particolare, che si presta al taglio e al genere che lui ha scelto, e che è quella di trasmettere, lo dico anche come avviso ai lettori, insomma, qui non stiamo scherzando, non stiamo leggendo giallini facili, trasmette ansia, trasmette angoscia. Le sue trame non sono rassicuranti, non lisciano il pelo del lettore dal verso giusto, e non sono scontate, non ci sono commissariati, non ci sono personaggi che ritornano, che noi conosciamo a memoria. C'è la vita vera dentro le sue pagine, e tra l'altro, insomma, è forse giusto dirlo, io credo forse che sia anche per quello che in Francia sei stato tradotto in una serie prestigiosa come quella di Gallimard, perché sono dei gialli che spesso virano al nero, insomma, al nero della credibilità, del realismo, della verosimiglianza. E i delitti ci sono, ma non nascono dentro intrecci lambiccati, si innestano proprio, si incistano con dolore nella vita autentica delle persone, nella vita con cui facciamo i conti tutti noi, insomma. La coppia, la famiglia, il lavoro e le sue difficoltà, sono questi gli scenari delle tue trame, che su cui poi torniamo, ma comincerei proprio da queste situazioni comuni. E il libro che ti ha dato il premio Scerbanenko, Cosa resta di noi, parte proprio da, tanto per dare un'idea, insomma, della forza di questa scrittura, della sua potenza, parte da una situazione molto delicata, molto dolorosa. C'è una coppia che sta in una sala d'aspetto in un ospedale perché sta cercando di avere un figlio. È il terzo tentativo, e è il terzo tentativo che non riesce. Quindi, insomma, siamo in una situazione davvero forte. E sono una coppia molto bella, sono giovani, sono felici, sono stati felici molto, si sono trovati quasi magicamente, insomma, in un ambiente che li ha fatti incontrare, li ha favoriti, vivono in Versilia, c'è il mare, c'è tutto, ma questo figlio non arriva e questo desiderio comincia a mangiarsi piano piano tutto il resto, insomma, tutta la felicità, tutta l'incoscienza, diventa una cosa martellante, ricorrente, che sta sotto tutte le loro incomprensioni. E forse magari potremmo cominciare a leggere un pezzettino per dare un'idea, insomma, di questa prosa. Ecco. Eccoci. Solamente per dire, questi due personaggi si chiamano Guia e Edo. Guia, si capisce anche un po' dal nome ricercato, è figlia, diciamo, di quell'aristocrazia fiorentina, aristocrazia in realtà borghese, ma la chiamo aristocrazia perché, insomma, chi sta a Firenze, i fiorentini, si sentono comunque, hanno un sentimento di superiorità rispetto a tutto il resto della Toscana. Non per niente la Toscana, io per dire, quando mi chiedono ma perché stai per la Juve, ma io non è che stia per la Juve, io sto per la squadra detestata dai fiorentini, solo quello. Cioè, questo è un po' la cosa. Ecco, chi sta a Firenze ha questa aura un po' aristocratica, per tutto quello che ovviamente sappiamo, per la bellezza, per il Rinascimento, per il fascino, però, insomma, poi guarda un po', no, dall'alto in basso il resto della Toscana, con cui ha passato secoli, no, a tirarsi olio bollente, vabbè, ma insomma questo è secondario. Quindi Guia è questa, l'alto borghesia fiorentina è molto raffinata, è di gusti anche culturali, quindi non gli puoi neanche dire che sono ricchi, ma sono non sono ignoranti, sono colti. E Guia è una di, quindi ha dalla sua parte il fascino che Edo, che invece è uno della costa, uno che ha cominciato a fare il bagnino e poi ha avuto, diciamo, un colpo di fortuna di entrare nelle grazie dei proprietari della figlia dei proprietari di questo stabilimento, e da bagnino si ritrova titolare, insomma, no? Titolare del bagno, perché è lui che se ne occupa, eccetera, eccetera. E questa coppia, come tu dicevi, è una coppia bella, perché, insomma, Edo, nonostante quello che si può pensare di uno che pensa nella vita di fare il bagnino, in realtà, proprio perché in Versilia le occasioni di lavoro sono molto, molto legate alla stagione, questo ha portato la Versilia a essere una zona di scolarizzazione piuttosto alta e anche di cultura abbastanza alta, proprio perché tipicamente si lavora d'estate e si ha tempo per studiare, ma anche, ovviamente, all'università, non solo. E quindi in realtà io ho conosciuto molti bagnini piuttosto colti, capaci, oltretutto diciamo oggi il bagno in mare non lo fa quasi più nessuno, quindi hai voglia di leggere mentre stai lì, cioè se ti vuoi fare una cultura, Edo è un po' uno di questi. Loro stanno cercando di avere un figlio, però c'è qualche problema, nessuno dei due è tecnicamente sterile, ma insomma c'è qualche, le cose non vanno. Tornano da uno di questi tentativi che io ho raccontato insomma nelle prime 30 pagine, senza preoccuparmi che i lettori di Giallo volessero un altro tipo di suspense, perché vi posso assicurare che questo tipo di protocollo di protezione assistita è pieno di suspense, è veramente pieno di suspense. E tornano da questo tentativo e purtroppo insomma il fallimento comincia, no, a profilarsi all'orizzonte. E allora Edo riflette, dice: fino a quel momento non avevo mai valutato l'importanza che ha per una coppia riconoscere una sconfitta assieme. Una quantità inenarrabile di casini si incancreniscono se uno tratta la resa e l'altro continua ad affilare le armi. Un traditore e un illuso non possono convivere. Guia dice: e allora, ma secondo te come faremo ad avere questo bambino? E Guia disse questo come se il figlio fosse lì, nascosto, per capriccio, da qualche parte, ancora invisibile, ma comunque lì, vicino a noi. Come se si trattasse di avere ancora un po' di pazienza e basta. Ormai era chiaro che la pazienza non era la soluzione. Non lo so. Tu però stai con me lo stesso, vero? Sì, io sto con te. Per la prima volta avvistai da lontano una possibile resa, ma volevo almeno che io e Guia la nostra resa la firmassimo assieme, anche in una piazzola sull'Aurelia, vicino a un agglomerato di palazzine stinte raggiunte solo da una strada sterrata e da vecchi pali della luce. Senza una sola parola, come un patto di silenzio sigillato in segreto fra le nostre labbra, in tutti i modi in cui sapevano ancora combaciare. Poco più avanti Edo fa un'altra riflessione. Dice di se stesso: io ero specializzato in rinunce dorate. Potevo dire di essermi contraddistinto per aver saputo accettare le disillusioni con grande equilibrio. Ma Guia no. I bardi di Colle Valdelsa no. Quelli non erano abituati a perdere battaglie o a fare rinunce. E allora mi chiedevo come avrebbe reagito mia moglie alla prospettiva di non avere un figlio, e per darmi fiducia pensavo a quel nostro bacio nella piazzola. In genere una coppia dichiara la crisi quando non si scopa più, ma la sopravvivenza di una qualche forma di sesso ci ha nel frattempo distratto dalla scomparsa dei baci. I baci sono un po' come le api di certo catastrofismo da social network. Il giorno che spariranno le api, l'umanità avrà i giorni contati. Ma io sulle api non mi sbilancio, ma il giorno che spariscono i baci, la fine dell'amore non è lontana. Ci sono alcune pagine in cui si sorride, questo lo volevo dire qualche volta. Poi magari dopo ne leggiamo una, insomma. Sì, sì. Però insomma vedo che anche voi avete sentito l'evocatività di questa attacco, e anche tu hai risposto in realtà alla domanda che ti avrei fatto dopo, cioè quanto costa come rinuncia non entrare nel giallo secondo le regole, insomma, ma entrarci da scrittore, quindi senza un percorso codificato, il delitto nelle prime pagine, eccetera, eccetera. E allora arriviamo invece al discorso delle trame, perché poi i delitti ci devono essere. Però la prima cosa che volevo toccare, che ho un po' accennato prima, è il fatto che appunto le tue trame non hanno un esordio scontato, non hanno una regolarità confortevole nemmeno nei personaggi, e toccano appunto situazioni della vita reale, ad esempio le situazioni professionali. A me piace leggere un romanzo in cui il giornalista è un giornalista verosimile, il bagnino è un bagnino verosimile, e nei tre ultimi tuoi libri, che sono quelli che ho avuto in mano adesso preparando questo incontro, così cito, abbiamo rappresentanti di commercio per tipografie storiche, abbiamo il funzionamento di uno stabilimento balneare, vengono descritte nel dettaglio le serate di cabarettisti di serie B, il funzionamento di della redazione di un settimanale, insomma si arriva addirittura, lui arriva a enunciare, e sono verosimili, le regole d'oro del mestiere. Cioè, c'è a un certo punto un giornalista che dice che foto mettere in pagina per vendere più giornali, con dei proverbi che sono assolutamente funzionali, non mostrare il sangue perché non si simpatizza col vitello macellato ma col macellaio. E allora mi chiedo quanta parte di questa cosa è affidata alla ricerca e quanto fa parte, come a me sembra, anche di un'esperienza tua, insomma. Ma io, venendo da una, rispondo partendo dal giornalista, venendo da una famiglia che ha sempre lavorato nel turismo, nell'accoglienza, nell'ospitalità, appunto avevo davanti a me presumibilmente una vita come quella di Edo, cioè fai il bagnino, poi magari se ti va bene, no? Fai un piccolo, però quello fai. Mio padre è stato direttore di uno degli alberghi più belli, più storici di Viareggio, l'Hotel De Russy, chiamato così perché costruito dagli esuli della Russi dopo la rivoluzione d'ottobre. E quindi quello sembrava il mio destino. Quando è emerso con un po' di sgomento da parte della mia famiglia, che invece appunto volevo andare a fare il liceo classico e l'italiano era come dire la materia in cui riuscivo di più, i miei hanno pensato: beh, cosa può fare uno che scrive bene? Perché lo scrittore non sembrava, no, un lavoro. Mio padre se n'è andato anni fa dicendomi: però sarebbe stato bello che tu avessi avuto un lavoro. Io ho cercato di spiegargli: guarda che, insomma, però niente, cioè è stata una famiglia che concepiva il lavoro come un'altra cosa. Quindi quello che hanno pensato: vabbè, se proprio vuole scrivere può sempre fare il giornalista, che giornalista gli sembrava un lavoro un po' strano, un po', però pur sempre un lavoro, c'hai un orario, c'hai uno stipendio, eccetera eccetera. Quindi ho cominciato a fare quello, ho fatto quello che saltiamo alla ragazza sbagliata, Dario Corbo, il giornalista della ragazza sbagliata, inizia a fare in quegli anni lì. Per me Dario Corbo è un amico di liceo con cui insieme abbiamo cominciato a fare la gavetta nella redazione di un quotidiano. Poi io, è come se da una parte lui ha continuato, io invece mi sono occupato poi di libri e di editoria e ho fatto un'altra strada. Però Dario Corbo è quella cosa lì, è anche la mia esperienza quando ho incominciato a frequentare queste redazioni. Facevo il quattropezzista, che è una roba sembra pericolosa, no? Di uno che però un po' è, nel senso che venivano pagati 4 pezzi al mese firmati per 50.000 lire lorde. Quindi insomma il precariato nel giornalismo non è stato, anche lo sfruttamento, chiamiamolo com'è, non è stato inventato da internet, almeno quello. Però qual era il grande sogno, la grande promessa? È che se tu firmavi 4 pezzi al mese per 12 mesi, per 2 anni, facendo i conti, tu in 2 anni avevi la famosa tessera da pubblicista. E questo era il grande miraggio. E poi da lì potevi decidere di fare altra gavetta. E quindi ecco, da quel punto di vista mi sono ispirato a cose che ho vissuto in quel periodo. Altre volte io credo che uno scrittore abbia, come dire, fra i suoi strumenti, dovrebbe avere la capacità di immaginarsi nei panni di un'altra persona, anche di una persona che non ha mai fatto, di un lavoro che lui non ha mai fatto. Altrimenti è vero che bisogna scrivere di ciò che si conosce, però è anche vero che credo in quello che mi piace di alcuni scrittori, quello che mi piace è la loro capacità di essere, di impersonare, di calarsi nei panni di qualcun altro, nei panni dell'avvocato, del muratore, di quello che volete voi, pur non avendo fatto necessariamente, anche se ovviamente nelle biografie degli scrittori c'è sempre, ha fatto i mestieri più umili, tutti. Non ce n'è uno che... E quindi è anche vero che molti scrittori hanno fatto molti, molti mestieri diversi, quindi, però credo che lo scrittore abbia, almeno secondo me, ha questa capacità, dovrebbe avere questa capacità molto misteriosa, quasi magica di mettersi nei panni di un metronotte pur non avendolo mai fatto. E quindi diciamo, in parte è documentazione, in parte è esperienza, in parte è immaginazione. Sì, è anche una forma di rispetto per il lettore, insomma, che si trova nel vivo, nel vero di una situazione. Cioè, quel rappresentante che tu ti inventi ha il suo motto, che le scarpe del rappresentante parlano di lui, quindi devono essere maniacalmente pulite tutte le sere. Sono quelle cose, quei dettagli di realtà che poi dalla pagina filtrano. E a proposito di realismo e di verosimiglianza, parliamo anche dei tuoi cattivi, nel senso che Giampaolo non è uno di quegli scrittori che si divertono a immaginare serial killer con dei traumi fantastici dell'infanzia, eccetera, eccetera. I suoi cattivi sono spesso delle persone, i suoi colpevoli sono persone che hanno dentro magari un'ansia, un rancore compresso e che poi esplode in un istante e che a volte fanno delle cose più grandi di loro. In un gesto inconsulto buttano per aria il lavoro di una vita, svoltano, esprimono una violenza proprio trattenuta fino a quell'istante che tracima tutta così repentinamente e catastroficamente. In Cosa resta di noi, per esempio, a un certo punto la protagonista, questa Guia, che fa la scrittrice, poi diventa anche opinion maker in qualche trasmissione di quella un po' lacrimevole per la televisione, si appassiona al delitto che sta al centro del romanzo e della vittima dice non ci sono misteri qui, questa poveraccia è incappata in Mr. Wrong, magari su un sito di incontri. E così volevo chiederti, secondo te, quanti sono i Mr. Wrong che stanno accanto a noi? Se il male è più vicino, insomma, di quello che si legge nei gialli con i traumi complicati? Ma io sul male sono decisamente agostiniano. L'ho scritto in un libro precedente, in un tipico noir come era Rosa Elettrica, però insomma alla protagonista di quel noir che aveva alle spalle una tesi mai finita su Sant'Agostino, gli facevo dire, come dire, lei era d'accordo con Sant'Agostino, io con lei, che il male non esiste, il male è solamente lontananza dal bene, assenza di luce, ovviamente per chi crede lontananza da Dio. Ma sapete, Sant'Agostino ha questa grandissima capacità di parlare anche a chi non crede, no? Uno che dice io credo per conoscere e conosco per credere è un uomo di cui ti innamori subito, cioè non è il problema di credere in Dio, no, è uno che ti fa innamorare. E quindi io sono... Esistono, certo, esistono momenti sbagliati, esistono scelte sbagliate, esistono atti terrificanti che vengono commessi, che forse, chi lo sa, non dico tutti possiamo commettere nella vita, ma ci possiamo andare vicini, o forse ci siamo andati molto vicini e neanche ce ne siamo accorti. Però io non credo nel male come una specie di patologia sociale per cui esiste una cura più o meno violenta, più o meno drastica, non lo so. No, io credo che esistono delle azioni malvagie e che uno come tu hai ricordato il rappresentante della notte alle mie spalle, che è un padre di famiglia esemplare, un marito insomma un po' soffocante, un po' anche troppo premuroso, un po' autoritario, però una persona a cui si può non si può criticare quasi niente, di cui non si può criticare quasi nulla, e che finisce a fare una cosa terrificante giorno dopo giorno, facendo un piccolo scivolamento giorno dopo giorno, e diventa un mostro senza accorgersene, o semplicemente mancando in maniera diabolicamente regolare o degli appuntamenti quotidiani che lo riavvicinino a quello che possiamo chiamare il bene, ma che per me, diciamo, laicamente è, come dire, il contatto con te stesso, no? Il contatto con la tua parte più profonda, interiore, il chiederti cosa sto facendo, è questo la vita che volevo veramente, oppure è la vita che gli altri si aspettano da me? Ecco, lui manca una serie di appuntamenti banali giorno dopo giorno con questo, che lo portano in una zona sempre più grigia, sempre più buia, ma che è essenzialmente il non contatto con se stesso, il non contatto, qui ovviamente Sant'Agostino la pensa diversamente, cioè la vede in un'altra maniera, è il non contatto con Dio. Per me però il procedimento è lo stesso, ecco. Quindi niente serial killer, ma no, ecco, anche perché se avessimo la metà della metà della metà dei serial killer che ci sono, che hanno raccontato i thrilleristi, oggi la popolazione del pianeta sarebbe decimata, cioè avremmo risolto qualsiasi problema di popolazione. Io mi chiedo, in Svezia, che già non sono tantissimi, no? Non sono tanti, con tutti quei serial killer... In Islanda, c'è un uomo ogni 10 chilometri, esatto, ed è un assassino. Esatto, esatto. È per quello che non ci sono gli altri. Voi contate che la polizia norvegese nel 2016, hanno fatto una statistica, ha esploso due proiettili, uno di quali per un difetto dell'arma. quindi per dire, ecco, scherzi a parte, a me non piace il serial killer, non mi piace, diciamo, come persona di base, non lo amo, ma poi io credo che sia una scorciatoia troppo facile. Perché? Perché io, che ho costruito anche per sceneggiatura dei gialli classici, cioè chi ha ucciso chi perché, chi ha ucciso chi perché, il chi ha ucciso, ok, il come, ok, ma veramente dov'è che casca l'asino? È sul perché. Cioè, sono i moventi spesso, no? di degli omicidi che in narrativa possono essere un po' deboli, perché uccidere è una cosa comunque enorme, no? È una cosa enorme, ed è vero che ci si può arrivare anche in maniera banale, ci si può, certo, la banalità del male, tutto quello che volete, però insomma il movente va sicuro che è sempre la cosa più spinosa da mettere su in maniera convincente per un narratore. Il serial killer elimina questo problema alla base, perché cioè, come dire, che fa lo squalo in vita sua? Lo squalo nuota e mangia, fine. Cioè è una cosa, è un organismo perfetto, che però quello fa. E il serial killer elimina il movente. Sì, poi il movente sarà il trauma infantile, d'accordo, però è sempre il trauma infantile, d'accordo, però ma non ci interessa, no? Alla fine, ecco, io su questa, come dire, obliterazione del movente non sono d'accordo. Io credo che invece raccontare un episodio, un delitto, un episodio criminoso, cercando di ricostruire non solo i moventi di chi poi l'ha compiuto, ma anche, insomma, lo scenario più ampio, le concause che hanno portato a un certo fatto, ecco, io credo che sia la parte più narrativamente più bella. E quindi non mi va di avere dei mostri che in automatico fanno quello senza bisogno, no? Tu li carichi a molla e vanno, cioè alla fine no, quello non mi interessa. Grazie. Senti, il tempo comunque da correre, quindi ci hai già fatto sorridere. Per tu cui... fammi dei gesti. No, anche, è bellissimo, anche, insomma... è proprio bellissimo. Adesso abbiamo lambito persino Gadda, insomma, con queste concause. E allora magari dedicherei quello il tempo che abbiamo anche a presentare l'ultimo libro tuo, La ragazza sbagliata, di cui abbiamo già conosciuto, di cui c'è già citato il protagonista, che è un giornalista che ha cominciato a fare il giornalista quando era giovane, insomma ventenne, negli anni 90, ma noi lo incontriamo nel presente. Lui è diventato direttore di un settimanale e noi lo incontriamo, ha fatto la carriera, però si è fatto anche cinico, si è incattivito, si è inaridito. E poi succede che la proprietà del settimanale cambia, lui viene convocato in un bel ufficio elegante, eccetera, e gli viene insomma detto che con pochissimo preavviso qua si sbaracca, si chiude, gli obiettivi che voi avete raggiunto non contano più niente, gli viene proposta anche l'auto a buona uscita, e lui in quel momento lì ritrova una fiamma di purezza, anche perché insomma Natale è vicino, perché lui dice ma voi siete proprio schifosi, io devo andare a dire alla gente che lavora con me, potevate aspettare 15 giorni, facevano il Natale con i loro cari, che sono, invece gli devo dire che sono in mezzo a una strada, e rifiuta questa cosa. E però questa purezza che lui riacquista naturalmente la paga, e questo pagare anche economico lo mette in rotta con tutti, a cominciare dalla sua famiglia. E allora volevo chiederti, perché questo è un leitmotiv del tuo libro, quanto ci costa? Quanto ci costa quello che conquistiamo e quanto ci corrompe? Nel caso di Dario Corbo i conti sono abbastanza complicati, perché lui è uno che parte a fare il giornalista con tutto un carico di idealismo, no? Come dire, lui si pensa che un giornalista debba cercare la verità, abbia quello come scopo, come deontologia, e poi raccontarla a chi lo legge. E pensa che quindi il giornalista sia anche un po' il cane da guardia del potere, cioè no, verso il potere, e quindi si concepisce come un mastino alla ricerca della verità. Però questo succede quando lui è relativamente giovane, ha 26-27 anni. È un'età in cui ancora, come dire, non si ha l'esperienza forse di vita più che di professione per domandarsi sempre se le cose non siano un po' più complicate e complesse di quello che noi pensiamo. Dario Corbo non fa questo. Dario Corbo è uno che in un momento importante per la propria carriera all'inizio si ritrova in una redazione locale, versiliese, da apprendista nerista, cioè da quello che in pratica fa ogni sera e ogni mattina le telefonate in questura, al pronto soccorso, ai carabinieri, per sapere quello che è successo, è morto qualcuno, l'incidente stradale, tutto quello che c'è. Lui fa questa roba qui, e in Versilia nel 93, nell'estate del 93, succede un caso di cui parlano tutti. Sparisce una ragazza, nessuno la trova per due settimane, poi purtroppo viene ritrovata morta in un dirupo, e da lì nasce un caso di cui parla tutta Italia. Lui ha l'occasione della vita, perché si mette all'occasione per mettersi in luce come giovane rampante, e lo fa, solo che non si rende conto che per fare questo la verità, la deontologia, beh, a un certo punto, se ogni giorno devi cercare qualcosa a tutti i costi per mettere l'assassinio di Irene Calamai e la probabile colpa di un'altra ragazza quasi sua coetanea, Nora Beckford. Ecco, se ogni giorno questa storia deve essere comunque sul giornale, perché è una storia dove c'è sugo, che titilla un po' anche, no? il macabro e il senso del macabro che tutti abbiamo, e certe prudelie che tutti abbiamo. Ecco, se il tuo lavoro diventa quello, poi fai presto a dimenticarti della verità, perché magari la verità è che quel giorno non è successo niente, ma se la racconti, il giornale non vende. Ecco, lui entra in questo meccanismo da giovane, con ingenuità, con idealismo, ma anche con ingenuità, e poi fonda su questo caso di Nora, che chiameremo Beckford Calamai, su questo caso fonda la sua carriera, perché lui è un colpevolista convinto rispetto a Nora Beckford. Nora Beckford è una colpevole che tutto sommato sta bene un po' a tutti, all'opinione pubblica, perché è una ragazza un po' è una ragazza perduta, è una ragazza che ha a che fare con droghe, con vita sregolata, con varie disinibizioni, e quindi lui fa parte di un movimento di opinione pubblica che reclama la testa di Nora Beckford, e alla fine una sentenza decide in quel senso. Lui fa questo percorso, ripeto, anche con una certa, con uno slancio ingenuo, per poi diventare dopo uno di quei giornalisti che comunque, nel momento in cui succede un incidente stradale in cui muoiono un paio di giovani di ragazzine, la prima cosa che chiede: sì, ma la targa di chi ha investito è per caso straniero, il guidatore? Perché se è straniero, allora, ecco, mi interessa di più. Ecco, lui diventa questa cosa qui negli anni, diventa definirlo cinico è anche poco da un certo punto di vista, però diventando questo ha una carriera invidiabile, riesce a tenere su un settimanale in un momento in cui la carta stampata comincia a perdere colpi, ogni anno le copie di vendute diminuiscono, insomma lui trova una zattera di salvataggio, se non che a un certo punto gli arriva questo colpo basso, cioè anche tutta questa sua percorso non gli ha consentito di salvarsi. In ogni caso, vedo che mi porgi una... Sì, perché il delitto è ambientato, adesso ce l'ha detto Giampaolo, in un'estate che è molto significativa per la storia d'Italia recente, ed è l'estate del 1993, cioè l'estate, diciamo, successiva all'anno in cui esplode Mani Pulite, ed è l'estate in cui succedono poi una serie di cose, e che tu hai sintetizzato, devo dire, benissimo, una pagina molto felice che ti chiederei, se ti va, di leggerci, e poi ti faccio anche un'altra domanda, insomma. Allora, sì, estate del 93. Dario Corbo è costretto, da una serie di circostanze che non riassumeremo, a rimettere le mani su questo cold case. E quindi comincia, va anche a riprendere i suoi appunti del 93, nel 2016, e si rilegge con l'esperienza, no? Con la saggezza che in qualche maniera l'età porta. E dice: non sono mai tornato indietro a rileggere i miei appunti del momento. La memoria ci inganna a fin di bene per farci pensare di non aver mai avuto davvero torto. La memoria alleggerisce il passato e ce lo rende trasportabile. Rimozione. Ma io cosa ricordo di quei giorni del 1993? Ricordo di non vedere l'ora che fosse mattina per rileggere il mio articolo sul giornale come se non lo avessi neanche scritto io. Ricordo arrivare sempre per primo alle conferenze stampa. Ricordo le bombe della mafia a Roma e a Milano. Ricordo un'estate interrotta. Ricordo non cenare mai a casa. Ricordo l'ultimo giro di telefonate questura carabinieri ospedale che toccava quasi sempre al praticante nerista, cioè a me. Ricordo se è sparato Gardini. Ricordo pomeriggi senza fine e niente mare. Ricordo un avviso di garanzia a Prodi, una notizia che fece il giro delle redazioni per qualche giorno, ma non venne mai data perché era una bufala, cioè una di quelle cose che oggi verrebbero sparate direttamente su internet. Ricordo che il giorno dopo la scomparsa di Irene andai per la prima volta a una festa con il Teledrin. Lo ostentavo alla cintura quasi con orgoglio, devo dire. Squillò alle 10 e non sentii ragioni di telefonare in redazione. Filai subito, convinto che avessero trovato Irene viva o morta. Il Teledrin. Senti, è inevitabile che ti chieda che quantomeno, insomma, ti dica il mio apprezzamento per il fatto che tu inizi a raccontare la perdita dell'innocenza di Corbo dentro quel momento storico lì, cioè un momento di grande speranza, di grande ambizione. Sì, il 93 è un anno strano, molto strano. Io l'ho definito un anno simile a Giano Bifronte, no? Questo Dio che ha due facce, una che guarda verso il passato, una che guarda verso il futuro. È un anno spartiacque, noi ricordiamo più il 92, perché nel 92 è nata Tangentopoli. Noi, insomma, chiaramente parlo di quel paese che sta qui a pochi chilometri di distanza. Ricordiamo il 92, ricordiamo Falcone e Borsellino e l'inizio, diciamo, canonico di Tangentopoli. Il 93 fu un anno in realtà molto più, anche più terribile per quello che successe e per quello che poteva succedere. E un po' come Dario Corbo, tutti, me compreso, abbiamo cominciato a rimuovere delle cose, no? Perché? Perché appunto altrimenti il passato non è trasportabile. E quando invece vai a rileggerti quello che stava succedendo nel 93 che poteva succedere, viene fuori veramente un anno bifronte, un anno che da una parte segna l'inizio di tante speranze, segna l'inizio dell'idea di Europa, no? Che era un'idea molto, molto bella, molto positiva, sembrava un traguardo. Gli accordi di Maastricht sono appunto di quell'anno. Si comincia a parlare di internet e anche questa cosa è qualcosa che ci proietta verso il futuro e, diciamo, la nostra vita cambierà, cosa che è successa, però in quel momento ci sembra che cambierà solo per il meglio, no? E invece i cambiamenti sono anche quelli bifronte. Ecco, però c'erano un sacco di idee belle, un sacco, forse è uno degli ultimi momenti in cui chi aveva, come me, insomma, intorno alla trentina, poco più, poco meno, ha vissuto un'idea di futuro molto bella. Per esempio, in quegli anni comincia l'esperienza dell'Erasmus. Io penso che l'Europa sia stata costruita probabilmente più da tutti i ragazzi che sono andati in giro a conoscere paesi vicini, molto simili, però anche diversi dal proprio. Ci sono tante di queste cose nel 93, compreso anche un'Europa che in quel momento esporta dance music, che è una cosa un po' strana, no? Nel senso, perché fino a quel momento l'avevamo più o meno importata, no? Ecco, anche in queste cose apparentemente frivole, ma che non sono, l'Europa era al centro del mondo, sembrava veramente al centro del mondo, perché si ballava non solo dance music italiana, ovviamente cantata in inglese, però da esportazione, ma addirittura sono andato a rivedere che i gruppi più importanti di dance music abbastanza commerciale erano quasi tutti olandesi, tedeschi, danesi, svedesi anche. E quindi era un in più c'erano altre cose, vado un po' così alla rinfusa, però spero di farvi riaccendere un po' l'atmosfera del 93. Nell'89 era crollato il muro di Berlino, anche quello era un grandissimo segnale, no? di libertà, di futuro, no? La storia cambiava veramente, no? Finalmente la storia cambiava, e non era solo caduto il muro di Berlino, io dico e ho capito che erano caduti anche un po' di muri mentali. Io sono stato adolescente negli anni 80 e ero fermamente convinto che da una parte c'erano quelli giusti, che erano, cioè, i miei, nel senso quelli che ascoltavano il rock, e dall'altra parte c'erano gli idioti che ascoltavano i Duran Duran. Cioè, il mio mondo era questo. Voi direte, ma eri un po', insomma, manicheo. Sì, ero manicheo, a 18 anni ero sempre. E da una parte c'erano gli U2 che volevano salvare il mondo, dall'altra parte c'erano i Duran Duran che piacevano alle ragazzine, accidenti a loro, alle ragazzine da cui io avrei voluto, no, chiaramente. Però tutta questa divisione artificiale fra musica stupida e musica impegnata, fra musica da ballare e rock, fra musica folk è musica vecchia, è musica nuova, negli anni 90 viene spazzata via. E all'inizio degli anni 90 gira della musica mai sentita prima, girano dei mix, delle cose che vanno dai Mano Negra ai Pogues, agli Stone Roses. Ora io dico, insomma, per chi ricorda un po' questi gruppi, insomma, il punto è che tutto si mischia, non ci sono più muri, finalmente, ed è bello, e perfino uno, insomma, un po' tetragono come me capisce all'inizio degli anni 90 che è molto più divertente, e poi anche nell'abbigliamento. Negli anni 80, se eri un dark eri vestito di nero, se eri un punk avevi i DMs, Dr. Martens, gli anfibi. Quelli, cioè, li vedevi solamente nei centri sociali, nelle discoteche underground. Invece negli anni 90 i Dr. Martens vengono mischiati con il vestito corto, con i jeans più o meno. Ecco, sono cose frivole, non lo sono, perché è il segnale che qualcosa è cambiato, che siamo tutti dentro una grande centrifuga che sta un po' partorendo in qualche maniera il futuro. Poi questo futuro, ahimè, non è stato poi così roseo. Però ecco, mi piaceva ricordare il 93 per tutte queste cose, e anche però per quello che stava avvenendo in qualche maniera alle nostre spalle. Nel 93 la mafia, Cosa Nostra, decide di portare la guerra in continente, perché ha capito che far saltare in aria i giudici alla fine non solo non le è servito, ma probabilmente è stato anche controproducente. E allora fa una mossa il nuovo vertice di Cosa Nostra, cioè Matteo Messina Denaro e Graviano, e cambia un po' la strategia di Rina, che alla fine non aveva pagato affatto, tant'è vero che Rina nel gennaio del 93 viene arrestato. Cambia e elabora una strategia di un'intelligenza criminale comunque non banale. Perché fa questo ragionamento: noi possiamo ammazzare i giudici, noi possiamo mettere tritolo, noi possiamo diventare delle belve sanguinarie, ma c'è una cosa che noi possiamo fare per mettere in ginocchio l'Italia. Il vertice di Cosa Nostra, fra il 92 e il 93, in quell'inverno, incomincia a pensare di abbattere la Torre di Pisa, perché morto un giudice se ne fa un altro per loro, ma abbattuta la Torre di Pisa non ne fai un'altra. Loro individuano nel patrimonio culturale, artistico, il punto debole, il punto su cui picchiare per condurre lo Stato alla trattativa. E questo è un pensiero criminale non privo di una certa intelligenza, perché vi rammento che un ministro della Repubblica Italiana, pochi anni dopo, neanche tanto, disse che in Italia con la cultura non si mangia. Ecco, il vertice di Cosa Nostra invece aveva capito che noi sostanzialmente in Italia mangiamo con la cultura, e quindi muovono questa offensiva. Poi ovviamente capiscono che se butti giù la Torre di Pisa la trattativa non si fa, a quel punto non si fa. E allora, in maniera sempre abbastanza, come dire, non sono cervelli da poco, ecco, questo, stiamo parlando di persone, cioè, che hanno sì dei profili abbastanza grezzi per altre, però, e quindi muovono questo attacco misurato, di intensità sempre più forte, per indurre la controparte a venire a più miti consigli. Nel novembre, ottobre del 93 c'era una lancia piena, stipata di pentrite, tritolo, T4, eccetera, eccetera, del tutto uguale a quella esplosa in via dei Giorgofili a Firenze a maggio. Era allo Stadio Olimpico, pronta a esplodere al passaggio di un autobus che riportava i carabinieri in caserma dal servizio. Sarebbe stata una strage, e che strage, no? Cioè, pensate, no, anche a chi volevano colpire. Ecco, quella lancia non è esplosa. Le teorie sono due: una dice che non ha funzionato il telecomando, l'altra dice che qualcuno ha detto ok, fermi qui, non c'è più bisogno di far esplodere questa. Questo era il 93, questo anno, e a me piaceva raccontarlo, io volevo raccontarlo non solo perché l'ho vissuto, per come l'ho vissuto e per tutto quello che stava accadendo, e che io, come tanti altri, nella nostra ingenuità, tutto quello che non potevamo sapere, e continuavamo tranquillamente a andare alle feste, a ballare sulla spiaggia, la dance music prodotta in Germania o in Olanda. Senti, ti ringrazio molto, perché poi vedrete, leggendo La ragazza sbagliata, che questa ambientazione si sposa, direi magicamente, ma proprio come un congegno orologeria, con quello che lui sta raccontando. Scusa, faccio una piccola... ti rubo solamente un secondo per dire, io l'ho scritto all'inizio del libro, però poi nessuno lo legge mai, perché sono le prime pagine, uno va... Allora, nella ragazza sbagliata, il caso di Irene Calamai e di Nora Beckford è completamente inventato, cioè non andate su Google a cercare Irene Calamai e Nora Beckford, perché non sono mai esistite. È il mio lavoro di fiction. Ma ogni volta che troverete nella ragazza sbagliata citato un personaggio realmente esistente, e lo troverete sistemato, posizionato in un certo punto, ecco, sappiate che io non mi sono inventato niente, perché giusto l'altro giorno un lettore mi ha, come dire, rimproverato di aver fatto convergere in Versilia nell'estate del 93 tutto quello che mi faceva comodo. No, io ho letto atti d'inchiesta, ho visto che in Versilia del 93 sono passati vari personaggi di vario tipo, e allora dopo ho deciso di scrivere La ragazza sbagliata. Quindi questa è un'avvertenza che vi faccio quando e se avrete voglia di leggere questo libro, perché so che sicuramente quelle due righe che ho messo all'inizio le saltate. Quindi, scusa. Ottimo. Senti Giampaolo, il tempo c'è proprio volato via, però c'è un'ultima cosa che vorrei dire, se il nostro direttore ci autorizza, e che penso sia molto importante per capire anche, insomma, un po' il mio entusiasmo di lettore, la mia felicità di presentarti, e anche così la qualità di quello di cui stiamo parlando. Allora, in questo libro tu l'hai citato subito, il concetto della verità è una nota di un accordo dominante che torna spesso. Dario Corbo a un certo punto implora uno dei personaggi, dice: non trattarmi come un fanatico della verità, e però nello stesso tempo vuole con tutte le forze trovare la verità su questo caso che lui aveva così fortemente segnato con la sua impronta. Poi in una pagina bellissima, che adesso non possiamo leggere perché arriva verso la fine del libro, troppo vicina per poterla leggere tutta, è Dario Corbo che dice: la verità non è eterna, anche la verità dopo un po' muore. Ecco, su queste parole qui, su cui ti chiederei un commento, io vorrei soffermarmi, perché il giallo, che è il genere che noi siamo qui a celebrare con tanta partecipazione, con tanto entusiasmo, è stato accusato, forse non a torto, tante volte di essere un genere che rassicura, che ci accarezza, che fa tornare tutti i conti, e che non porta il lettore in quella zona di vertigine, di squilibrio, che invece dovrebbe essere la meta della letteratura e dell'arte. E tu invece lo fai, e forse è proprio per questo che hai scritto un libro così bello. Oddio, come posso commentare? No, io sono, insomma, appartengo a quel tipo o a quella generazione, non lo so, di scrittori che si è formata molto sul noir francese. Il noir francese è un noir, diciamo, programmaticamente arrabbiato, se vogliamo. È un genere che è stato alimentato da scrittori in genere anarchici, non tanto di... verrebbe dire di sinistra, di estrema sinistra, sessantottini, come dire, un po' dimessi, oppure sessantottini sconfitti, non è proprio la verità. In realtà il noir francese è profondamente anarchico, questa. E quindi, come dire, non mi va. Io ho letto pochi giorni fa il commento di un carissimo, bravissimo scrittore italiano di grande successo, che però diceva a un certo punto: insomma, i miei romanzi sono un po' come il vostro divano, la vostra mobilia, entrate, siete a casa vostra e vi rilassate. Non lo so, io se mi rilasso poi mi addormento alla fine, no? Nel senso, ecco, io non sono d'accordo con questo illustre collega a cui voglio tanto bene, nel senso, sono di un'altra idea. Io credo che, io sono forse per un profondamente sadico, perché ogni volta che un lettore mi dice: mi hai fatto fare le 5 di notte, non mi hai fatto dormire per finire il libro, io dentro ho un brivido di piacere. Questo, cioè, io leggo per non addormentare, cioè io cerco di fare agli altri quello che Stephen King ha fatto a me, ecco, insomma, no? O che Simenon, o che Dürrenmatt ha fatto a me, cioè la voglia di non mollare, e anche se il giorno dopo ti devi alzare alle 8 e niente, cioè tu vai fino in fondo e perdi delle ore di sonno. Ecco, per fare questo io non credo che bisogna lasciare il lettore comodo nelle proprie convinzioni, e quindi credo che se parliamo di noir si parla di un genere che ha sempre questa, che è inconciliabile, che comunque non fa mai quadrare i conti alla fine. Questo ecco, in me devo essere, insomma, io questo cerco anche però di non farlo diventare un dogma, no? Perché dopo, allora, si dice che un noir non è un noir se non muoiono 40-50 persone. No, non me ne frega assolutamente nulla. Voi avete letto, so, Boileau e Nas Jacques, I Diabolici, ecco, l'ha ripubblicato a Delphi da poco, andatevelo a leggere, a comprare, Le Diaboliques, fra l'altro film di grande successo negli anni 50, e Boileau e Nas Jacques sono due scrittori arrabbiati, irriducibili, perfidi, però che non hanno mai un filo di compiacimento nel far accadere cose tremende. Ecco, io credo che questo sia un patto fondamentale fra chi scrive e chi legge. Io prometto di non farti dormire, prometto di non farti stare comodo, ma dall'altra parte prometto che non ti racconto qualcosa per il compiacimento del particolare truce o del particolare sconvolgente. C'è in quello che io cerco di raccontare una specie di premura sempre del narratore nel cercare paradossalmente di minimizzare quando può, di ironizzare, di sdrammatizzare quando può, perché è una voce che tu devi sentire amica. E quando io ti dovrò raccontare la cosa peggiore che davvero ti devo raccontare, a quel punto tu mi crederai, perché hai saputo che fino a quando te l'ho potuta risparmiare, io l'ho fatto. Ecco, io questo secondo me deve fare uno scrittore, almeno cerco di fare io. E quindi, insomma, come dire, spero di farvi perdere qualche ora di sonno, perché i libri che ho amato me l'hanno fatto perdere, quindi questo è, così la penso. Grazie mille a Gian Paolo Simi e grazie a Teo.